La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Vince Enzina davanti la fabbrica. È l'Italia delle fabbriche, delle vincenzine, delle città operaie. È l'Italia che ha finito di vivere gli anni 50 ed ora col bagaglio acquisito si appresta a una nuova stagione. Alla TV, nel tardo pomeriggio, vanno in onda capolavori per bambini, tra questi i disegni animati di Bruno Bozzetto col suo signor Rossi, il simbolo dell'italiano medio alle prese col malcostume della propria società. Niente di più attuale ancora oggi. Disney diceva una frase molto bella: se puoi sognare, puoi anche farlo. E credo che questo racchiuda tutto il suo mondo, l'ottimismo di cui parlavo prima, la convinzione che si possa affrontare qualsiasi cosa. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare qualcosa del genere quando abbiamo iniziato, ci si credeva, facevamo delle cose perché eravamo convinti di dire qualcosa di nuovo. Ecco, questo credo che sia un po' la cosa più importante, sentire di star dicendo qualcosa di nuovo. I sogni son desideri, quella di Bozzetto è la storia di un sogno, di un ragazzino tenace e talentuoso, innamorato del suo paese, al quale dedica tante opere inarrivabili. Bozzetto è il disegnatore italiano più conosciuto al mondo, meriti che arrivano da un talento smisurato e dalla concretezza ereditata dalla famiglia d'origine. A casa Bozzetto, Bruno viene aiutato dai genitori a seguire i propri sogni e così, con una telecamera in mano, nasce il primo disegno animato. Lei aveva più o meno 20 anni quando ha iniziato... Anche prima. Ho iniziato... 18, 17, 18 anni a fare i primi esperimenti, però erano proprio esperimenti nel vero senso della parola. Io amo il cinema e ho iniziato per l'amore verso il cinema, più che verso il disegno animato. Mi piaceva la possibilità di comunicare attraverso la pellicola, soprattutto ero entusiasta del montaggio, che permette di ricostruire un secondo film, di dargli un ritmo, di trasformarlo completamente. Quindi era il cinema che mi appassionava. Mio padre ha comperato una macchina 8 mm, non c'era ancora Super 8 allora, per lui. Suo papà... No, semplicemente lui era interessato alle tecniche, è stato un mio grande amico, un collaboratore incredibile, oltre che padre, perché mi ha aiutato anche tecnicamente in tantissime cose. Però era appassionato di tutta la tecnologia e come è uscito questa macchina, erano le prime, l'ha comperata. Come è entrata in casa non l'ha più vista, l'ho presa io e ho cominciato a girar di tutto. Chiaramente, essendo solo, facevo documentari in generale. Poi... ho incominciato a far film sugli animali, sugli insetti soprattutto, molti film sugli insetti, con gli obiettivi macro, insomma era anche molto faticoso ma molto divertente. Però ho scoperto che quando cercavo di fare dei film con degli attori, chiamiamoli così, ma erano dei compagni di scuola, questi venivano un giorno o due e poi si stancavano e quindi mi trovavo da solo a dover completare il film, dovevo fare le parti di tutti, dovevo fare il fotografo, il regista, il montatore, far tutto. E quindi ho tentato, visto che mi piaceva molto disegnare, con dei piccoli disegni sperimentali su dei block notes, partivo dall'ultimo foglio, appoggiavo il penultimo, in trasparenza vedevo quello precedente, cambiavo qualcosa e praticamente sono riuscito a fare dei primi film. E al cineclub di cui ero socio sono stati molto apprezzati, perché l'animazione allora era una cosa magica. E quindi questo mi ha stimolato a continuare. In più, coi disegni ero io da solo a lavorare, quindi potevo gestirmi il tempo. Non avevo problemi di atmosferici, di pioggia, di sole, di attori. Lavoravo quando volevo, come faccio ora, perché lavoro sabato e domenica, lavoro sempre, quando posso. Quindi diciamo che questa passione, che poi è diventata un lavoro, è nata quasi per caso. Cioè, da un'esigenza, più che non... È nato per caso, mi piaceva comunicare, raccontare delle storie. Probabilmente se fossi stato bravo avrei fatto l'attore, non lo so. C'era la passione di comunicare qualcosa agli altri. Ma non è nato come lavoro. Sono stati il primo carosello che mi è capitato per puro caso tramite un compagno di scuola. Chiaramente il carosello ha portato soldi. I soldi hanno portato la possibilità di poter cercare collaboratori, di aprire lo studio, e poi è partita la ruota, e nella ruota poi ci siamo trovati a fare tantissime cose. E ha descritto anche così, attraverso questi 3-4 momenti, il carosello è un momento dell'Italia pazzesco, sì, no? Grandissima creatività, grandissima espansione. C'era interesse per tutto, tutto era nuovo, c'era voglia di fare, il nuovo veniva apprezzato, cosa che non è più ripetibile oggi. Oggi abbiamo troppo, è il contrario. Oggi abbiamo talmente tanti impulsi, riceviamo talmente tante informazioni e tanti impulsi che facciamo fatica a identificare quello che preferiamo. Quindi io lo vedo per i giovani, quando si va ai festival, prima arrivavano 20 film e quindi io all'inizio ero l'unico italiano presente ai festival, l'unico, e quindi chiaramente ero notato. Oggi uno va a un festival e trova 2200 partecipanti, cioè è impossibile essere notati oggi, è difficile. Ecco perché poi la gente cerca gli estremismi, cerca di creare qualcosa di assolutamente diverso, anche di cattivo gusto, ma diverso. E questa è una forzatura che non mi piace. Ma infatti, secondo me, è anche molto legato al fatto che si pensa che il grosso lo porti la tecnologia, no? Saper utilizzare quando in realtà è proprio quello che diceva all'inizio dell'intervista, è quello che uno vuole dire, forse la cosa più importante, dovrebbe direi almeno. Direi di sì, però è vero che la tecnologia oggi la sta un po' facendo da padrona, e per i giovani può essere anche pericoloso, perché li porta a credere che, sapendo gestire la tecnologia, sono in grado di fare delle cose. Sto leggendo un libro di Ed Catmull, che era il presidente della Pixar e della Disney, e che scrive proprio delle proprie esperienze, un libro bellissimo tra parentesi, e si parla proprio dell'importanza della storia, e dice: quando uno nota dei particolari tecnici, significa che la storia non interessa, perché se anche la tecnica fosse sbagliata, ma la storia ti prende, non c'è santo, tu sei preso dalla storia. E questo è quello su cui punto io, ho sempre puntato io. A questo punto dobbiamo fermarci per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. La prima volta. La prima volta. Bozzetto nasce nel 1938 a Milano, farà in tempo a vedere lo scempio della guerra, sarà di quella generazione giovane che affermerà i suoi ideali negli anni 60, una gioventù che balla, canta e immagina un futuro diverso. Il peggio sembra essere alle spalle. Periodo intensamente creativo, quello degli anni 60, anche per Bruno Bozzetto, che proprio in questo periodo realizza film bellissimi e premiati dalla critica e dal pubblico. È il caso di Tapum, la storia delle armi. Il film verrà proiettato al Festival di Cannes, attirando l'attenzione dell'animatore canadese Norman McLaren e del produttore inglese John Allas, con il quale il giovane disegnatore collaborerà. Saranno gli anni della sperimentazione, non solo a scuola ma nella società, e in questi anni che Bozzetto inventerà il personaggio del signor Rossi, un ometto di mezz'età alle prese con una società e i suoi cambiamenti. Mio padre, devo dire che insieme ai fratelli, aveva una ditta di prodotti chimici per l'industria tessile, quindi il mio destino era segnato a finire in questa ditta, che era molto grande oltretutto. E però è stato talmente intelligente non solo di lasciarmi fare quello che ho preferito, ma mi ha aiutato. La mia prima macchina da presa che è una macchina enorme normalmente, quella che si usa per le riprese di disegni animati, lui me l'ha costruita sull'asse da stiro di mia mamma. L'ha modificata, io ho girato il mio primo film sull'asse da stiro di mia mamma. E quindi è stato un personaggio, e quindi non è stato un passaggio di testimoni, perché lui non sapeva nulla di disegni animati. Ricordo che parlava con mia mamma e diceva: ma vedo nostro figlio che sta lavorando a fare disegni, disegni, ma cosa sta facendo? Cioè non capiva esattamente cosa faceva. Bozzetto è ormai un uomo, ha la casa piena di bimbi e i suoi disegni animati segnano i sogni di un'intera generazione. Nel 1976 esce Allegro non troppo, risposta al film Fantasia di Walt Disney. Gli intermezzi tra un'esecuzione e l'altra sono girati dal vero, con Maurizio Nichetti come protagonista. Un film bellissimo, come del resto le musiche, del quale ancora oggi in molti parlano come di un punto irraggiungibile. Un film visionario e innovativo. Il ragazzino che ha iniziato a girare film per gioco è dunque cresciuto. Troppi anni di carriera, ovviamente. Poi in quel periodo c'erano molti festival, quindi, e partecipavo anche di più, però insomma i premi sono importanti, ma non sono tutti quello che interessa il pubblico. Mentre adesso ci sono meno festival legati proprio al fumetto, comunque legati al cartone? Sì, ce n'è meno, sono specializzatissimi e poi purtroppo, secondo me, stanno diventando specializzati, nel senso che guardano molto alla parte grafica, estetica, mentre a me personalmente interessa il contenuto. E quindi a volte ho anche dei conflitti, preferisco partecipare a festival di film dal vero dove apprezzano la storia e il contenuto. Perché lei poi tra gli altri premi, infatti, ho visto che ha ricevuto anche il premio internazionale Poesia Civile Città di Vercelli, sì. Perché mi ha colpito, perché poi è stata forse la prima volta che un fumettista ha ricevuto un premio, che spesso va invece a poeti. Sì, che... è stato strano, devo dire, ha colpito anche me, però mi ha fatto piacere, perché in effetti in molti dei miei film c'è un contenuto che può essere abbastanza vicino alla poesia o ai sentimenti, quindi questo mi fa piacere, anche se poi prediligo il film umoristico, il film divertente, le gay. Si cerca di fare qualcosa che comunichi, trasmetta qualcosa alla gente, questa è la cosa più importante. Gli argomenti che lei ha trattato sono sempre argomenti di impegno civile, l'ambiente, la guerra, l'ecologia. Esatto. Volevo chiederle se lei negli anni 70 ha avuto modo di incontrare personaggi come Rodari, comunque personaggi che hanno influenzato anche molto il mondo. Certo, no, purtroppo no. Ho conosciuto Piero Angela, ho lavorato con lui 10 anni, abbiamo fatto più di 100 film. No, non l'ho conosciuto. Mi dispiace molto, perché è un personaggio che ammiro, ma io non è che faccia volutamente dei temi per dimostrare qualcosa, semplicemente trovo che sia interessante col disegno animato parlare della nostra vita, della società, dell'uomo. Poi da piccolo, da giovane diciamo, mi avevano molto influenzato alcuni libri di Conrad Lorenz e di Desmond Morris, quindi il comportamento dell'uomo, soprattutto visto, come dico io, da lontano, cioè mi piace guardare la Terra dalla Luna, e quindi tutto cambia. Infatti nei miei film molte sequenze sono realizzate con personaggi piccolissimi, perché più mi allontano e più l'uomo perde la personalità, diventa qualcosa che fa parte di un tutto e lo si vede con altri occhi. E quindi mi ha sempre affascinato proprio il comportamento, e soprattutto, ripeto, rispetto agli animali, rispetto alla natura, ecco perché l'ecologia, l'etologia, la società, molti film che ho fatto parlano della guerra. La guerra è un elemento incredibile. Un altro libro che mi aveva colpito moltissimo era L'istinto di uccidere di Robert Hardery, che è un libro non molto conosciuto, che però è tragico, perché descrive come l'uomo è stato l'unico essere che Era nudo, indifeso, senza artigli, senza zanne, senza nulla, ma ha distrutto tutti gli altri animali, che vuol dire che il suo istinto di uccidere è più forte di qualsiasi altro animale sulla Terra. Questo mi ha molto colpito, infatti spiega in parte le guerre, perché l'uomo continua a fare delle guerre. Ecco, sono temi che mi affascinano e mi piace col disegno animato cercare di spiegarli in maniera semplice, possibilmente divertente, e raccontare qualcosa di nuovo. E lei nel frattempo la vita è andata avanti, lei si è sposato, ha avuto quattro figli. Io ho quattro figli, sì, beh, devo dire che due lavorano nello studio Bozzetto adesso, il primogenito Andrea lavora e stanno insieme a un socio Pietro Pinetti, stanno facendo andare questo studio molto bene, praticamente lo gestiscono loro, io sono socio ma li seguo molto da lontano, voglio che si facciano le ossa. Un altro figlio, Fabio, lavora anche lui nello studio e lui è più artista e devo dire è molto tagliato per certe cose. E le altre due figlie seguono tutta la mia vecchia produzione, che sono due gemelle, Anita e Irene, e quindi mi ritrovo ancora in famiglia a parlare del mio lavoro, che comunque reputo affascinante e originale, perché abbiamo sempre cose nuove a cui pensare, non ci si ripete mai. E lo trovo pulito come lavoro rispetto a tanti lavori, perché parliamo di umorismo, di disegni, non lo so, sono tanti gli elementi che affascinano in questo lavoro, quindi mi fa piacere che continuiamo. E mia moglie invece non si interessa di questo, però è molto meglio, perché almeno non devo parlare di lavoro anche con lei. Però ho avuto la sensazione adesso, mentre mi parlava anche dei figli e di come ha parlato di suo papà prima, che lei in qualche modo sia stato capace di passarlo questo testimone, no? A un certo punto farsi da parte come suo papà, le ha lasciato in mano la telecamera. Sì, mio padre, devo dire che insieme ai fratelli aveva una ditta di prodotti chimici per l'industria tessile, quindi il mio destino era segnato finire in questa ditta, che era molto grande oltretutto. E però è stato talmente intelligente non solo di lasciarmi fare quello che ho preferito, ma mi ha aiutato. La mia prima macchina da presa, che è una macchina enorme normalmente, quella che si usa per le riprese di disegni animati, lui me l'ha costruita sull'asse da stiro di mia mamma. L'ha modificata e io ho girato il mio primo film sull'asse da stiro di mia mamma. E quindi è stato un personaggio. E quindi non è stato un passaggio di testimoni, perché lui non sapeva nulla di disegni animati. Ricordo che parlava con mia mamma e diceva: ma vedo nostro figlio che sta lavorando a fare disegni, ma cosa sta facendo? Cioè non capiva esattamente cosa faceva. E mi fa invece molto piacere che i figli continuino. Oggi il lavoro è più duro, non è così come era allora, c'è meno spazio alla creatività pura, alla ricerca. Però resta sempre un bellissimo lavoro. Il talento di Bozzetto è immenso, quanto la sua modestia e la sua capacità di essere presente a se stesso. Nel 91, con il film Cavallette, riceve la nomination agli Oscar. In America Bruno è amatissimo, a tal punto che l'anno scorso il Walt Disney Family Museum di San Francisco gli ha tributato un doveroso riconoscimento per i suoi lavori nel campo dell'animazione, dedicandogli una mostra retrospettiva dal titolo Animation Maestro. La prima volta termina qui. Grazie per essere stati con noi, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domenica prossima, sempre alle 13.30. La prima volta è anche su Facebook, alla pagina Radio 24 La Prima Volta. Invece l'email per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.